Quale momento della giornata vi piace di più? Perché? Che mi piacerebbe fare ago e filo. E anche altri hobby come collane, bigiotteria. E difatti ci hanno regalato un bel portachiavi quando siamo venuti l'ultima volta. Ti ricordi che avete lavorato assieme ai bambini? Ecco, è stato bellissimo, i bambini lo portano tutti con loro. Quali sono le attività che preferisci qua al centro? Dunque, cucito, la macchina da cucire perché ero abituata tantissimo dopo la maglia. Dopo anche lo sport, atletica, fare tante passeggiate. Hai imparato cose nuove venendo qui? Sì, dai, a cucire, non so dire dove c'è, ma a fare i ferri. Adesso vedrò se posso anche cucire la macchina perché mi piacerebbe tantissimo. Hai imparato cose nuove venendo qui? Sì, dai, a cucire, non so dire dove c'è, ma a fare i ferri. Adesso vedrò se posso anche cucire la macchina perché mi piacerebbe tantissimo. A chiedere alla responsabile se posso cucire la macchina. Perché è molto, mi piace tanto. Ti piace stare qua al centro con gli altri? Cosa fai? Faccio compiti, faccio letteratura, scrittura, immagini, esercizi cognitivi. Dalle foto sappiamo che a volte fate delle gite. Te ne ricordi una che ti è piaciuta molto? Ah, delle gite sì, a Verona, dei bambini in colonio, fontane fredde. Io mi ricordo che sono stata al Vittoriale con i miei compagni, però noi abbiamo dovuto cercare le cose più interessanti, una la nave, quell'altra i cavalli, l'altro ancora è il lago, il laghetto, e dopo quando che abbiamo cercato tutto, Esatto. ci siamo fermati lì, abbiamo fatto merenda. Come si chiama quell'attività dove prima cercate dove andare? Vittoriale? Sì, come si chiama l'attività de? Come vi chiamate quel gruppo che cercate prima dove andare? Attività dei ci? Ciceroni. I ciceroni, Ciceroni. Ciceroni. Cosa sono i ciceroni? Ciceroni. Che cosa sono? Che attività è? È un'attività sull'esperienza che abbiamo avuto durante, dobbiamo fare girando con il pullmino, pullman, in varie città. Pianificano la gita, la studiano, e Noi osservano e poi si documentano e dopo raggiungono la meta. indubbiamente noi sul computer facciamo delle verifiche, no? Vediamo delle foto che dopo le foto vengono stampate e ognuna di noi ci danno una foto stampata dei ciceroni. Con quella foto lì andiamo a vedere le nostre dove siamo stati, no? Siete state contente di questo incontro? Perché? Sì, sono stata contenta di vedere i miei bambini e ho nostalgia, piango certe volte. ho nostalgia e vorrei affezionarmi a loro, ma non sempre si può avere questo desiderio, insomma. Ma verremo ancora a trovarvi. E io sono stata molto contenta di avervi visti, perché mi ha avuto una grande gioia per voi e spero che venite ancora a trovarci. Certo. Molto. E noi ringraziamo voi per la vostra disponibilità ad ascoltarci, ascoltare le nostre domande, ad incontrare e passare il vostro tempo grazie. Insieme. Grazie. Grazie. C'è qualcosa di particolare che pensavate di fare e non ci siete riusciti? Se sì, cosa? In realtà ce ne sono tanti progetti che vorremmo si realizzassero. A volte non siamo riusciti per mancanza di risorse, a volte per altre mancanze, a volte per inadeguatezza. E però quello sul quale stiamo lavorando è quello dell'inclusione sociale dei nostri ragazzi, cioè l'inclusione sociale per noi è appunto che i nostri utenti inizino, e hanno già iniziato, e su questo stiamo lavorando, appunto a uscire fuori anche da quello che è il centro socioeducativo e a dare una mano e poter lavorare sul territorio. Alcuni di questi progetti sono già partiti e alcuni dei ragazzi lo stanno già facendo. Su questo pensiamo di andare avanti, insomma, seguendo questa linea qua. Allora, a scuola abbiamo iniziato, inizialmente curavamo un orto, da lì ci siamo conosciuti e ci hanno adottato come comune Volano e come scuola e abbiamo portato avanti il progetto della raccolta tappi di plastica. E lì ho modo per recarci a scuola a prendere appunto i tappi, a loro modo per farci conoscere, per salutarci. Da lì poi sono nati alcuni progetti di collaborazione appunto con tramite le maestre e la maestra, di uno scambio dove non siamo più solo noi a recarci a scuola, ma sono state anche le classi e i bambini con gli insegnanti a venire qua da noi, aprire insomma le porte anche all'esterno.